Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. Sarà il vertice dei leader dell'Unione Europea con la Turchia in programma domenica a Bruxelles a decidere sull'eventuale apertura del capitolo 17, fatto che marcherebbe dunque nei fatti un rilancio del negoziato di adesione della Turchia all'Unione Europea. Lo ha indicato poco fa il portavoce della Commissione Europea Cinas, che non conferma e non smentisce quanto detto dal ministro turco per gli affari europei ad Ankara. La possibilità di aprire il capitolo sui rapporti economici è tuttavia indicata nell'ultimo rapporto annuale sulla Turchia. Nuovo record di afflussi sul fronte migrazione in Gran Bretagna, nonostante la linea dura del governo Cameron. Secondo l'Ufficio Nazionale delle Statistiche, fra il giugno 2014 e 2015 il saldo tra ingressi e uscite nel Regno è stato di più 336.000 persone, un incremento dunque di 82.000 unità rispetto all'anno precedente. Via libera dell'Europarlamento al bilancio UE. E doppia la priorità europea per il 2016, lavoro e migranti. Si legge dal bilancio europeo per l'anno prossimo, che ha ricevuto ieri il via libera dell'Europarlamento. La plenaria di Strasburgo ha dato il suo ok con 516 voti favorevoli, 179 contrari e 8 astensioni. Promosso l'accordo raggiunto con Consiglio e Commissione europea proprio la notte degli attentati di Parigi. Accordo che prevede pagamenti per 143,9 miliardi e impegni per 155 miliardi, garantendo più fondi, il massimo importo possibile anche per la gestione dell'emergenza rifugiati, piccole e medie imprese, studenti e per il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020. L'intesa include 1 miliardo e 600 milioni previsti nella proposta originale della Commissione e va incontro a molte delle richieste del Parlamento, che con un voto separato chiede agli Stati membri di dare 2,3 miliardi ricavati da multe per la concorrenza e dazi doganali per recuperare i pagamenti arretrati. Altrettanti 2,3 miliardi di euro sono richiesti ai 28 per finanziare i Trust Fund per l'Africa e la Siria. Nel dettaglio ci sono risorse extra per PMI 14,3 milioni, per finanziamenti per Horizon 2020 184,5 milioni, per infrastrutture strategiche 150 milioni, ma ci sono anche impegni. Gli eurodeputati hanno convinto Consiglio e Commissione a impegnarsi a continuare anche nel 2016 la Youth Employment Guarantee, l'iniziativa per l'occupazione giovanile ora in revisione, e di mantenere le fatture non pagate a un livello accettabile. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Nel 2014 è stato registrato un record di infezioni da HIV in Europa e in Asia centrale. Un terzo tra gli immigrati, hanno annunciato l'Unione Europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono stati dunque registrati 142.000 nuovi casi diagnosticati, un numero che non si vedeva dalla comparsa della malattia negli anni 80. In Russia si concentra il 60% delle diagnosi. Secondo l'OMS e l'Unione Europea, il numero dei migranti arrivati nel continente portatori del virus è diminuito del 41% in 10 anni, e i paesi europei hanno fatto progressi nella prevenzione sul proprio territorio. In 10 anni nell'Unione Europea è sparita oltre un'azienda agricola su 4. In Italia questo fenomeno è stato ancora più marcato. Dal 2013 il numero di aziende agricole è diminuito del 48,6%, è venuta meno quasi una su due, a fronte di meno 27,5% della media europea. I dati sono di Eurostat, l'ente di statistica comunitario, che ha pubblicato proprio oggi un rapporto sulla situazione nel settore e che spiega questa vera e propria moria con la tendenza alla concentrazione. 14:05:46, Europa 24 torna questa sera in Europa, appunto nella fascia serale dell'informazione dei programmi di Radio 24. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.